source of our common dangers. I'm beginning a conversation with you, with America. Buongiorno America, di Stefano Pistolini. Inevitabilmente dobbiamo sconvolgere la scaletta della puntata di oggi di Buongiorno America. Cerchiamo di dare un contributo informativo, naturalmente dal nostro punto di osservazione e nei temi che competono a questa trasmissione sui fatti accadute poche ore fa a Kabul, ma per farlo abbiamo chiesto il gentile contributo a una persona che spesso ci aiuta per capire meglio cosa accade in questi scenari, ovvero Andrea Margelletti, il presidente del Centro Studi Internazionali, che ringrazio della disponibilità. Buongiorno Andrea, grazie. Buongiorno a voi, grazie per l'ospitalità. Col quale vorrei cominciare a parlare proprio, se me lo consenti, con un piccolo particolare personale. Tu sei stato ospite proprio del contingente italiano e proprio di quei Parade della Folgore, anche se in un altro stanziamento, se non sbaglio, poche settimane or sono, quindi toccando con mano la temperatura e la partecipazione di questi soldati ai fatti in Afghanistan, vero? Sì, esattamente, un lavoro che il nostro istituto fa comunemente nei vari scenari di crisi, non necessariamente legati a dove sono presenti i soldati italiani, quindi sono stato con analisti del mio istituto proprio in Afghanistan e più precisamente nell'area di Herat, dove è presente, diciamo, il grosso del nostro contingente. Dal tuo osservatorio, al di là naturalmente del cordoglio, del dolore per le notizie che stanno arrivando, c'è qualcosa di sorprendente per questo violento innalzamento del livello dello scontro? No, purtroppo no, ma questo lo sanno tutti quelli che si occupano di queste tematiche. È una situazione di guerra e c'è stata una pesante disattenzione da parte della comunità internazionale, ne abbiamo parlato proprio tante volte anche grazie a voi, ed è naturale che purtroppo l'attenzione degli insorti guardi con ferocia verso gli elementi più capaci a portare stabilità, e gli italiani nei vari scenari in cui sono abituati ad operare hanno dimostrato palesemente qual è la loro straordinaria qualità. Giudichi la coincidenza con la conferma dell'elezione di Karzai, così appunto un puro caso o un, come dire, un motore, una miccia destinata ad accendersi? Beh, naturalmente il dato elettorale è importante per chi vuole compiere degli attentati, perché ha l'attenzione di tutti i media mondiali, noi stessi ne siamo in questo momento compartecipi, non è naturalmente una chiamata in correità, è soltanto un dato di fatto, e quindi poter colpire in tali contesti amplifica la propria azione. Per la situazione, per lo scenario internazionale che analizziamo consueto, oggi ci sono delle notizie che arrivano dagli Stati Uniti, dove, lo ripetiamo spesso e volentieri, la questione Afghanistan sta godendo di un'approvazione, di un'adesione da parte dell'opinione pubblica americana, se possibile ancora inferiore a quella dell'Iraq. Lo stanziamento del contingente, l'eventuale aumento del contingente americano in Afghanistan viene visto dal gradimento popolare negli Stati Uniti in termini assolutamente negativi, però arriva la notizia che il capo del Joint Chiefs of Staff americano, l'ammiraglio Mike Mullen, parla di un probabilmente necessario, questa è l'espressione ufficiale, aumento delle truppe in Afghanistan. Obama sta soppesando le relazioni ricevute da McChrystal, che è il generale che guida l'impresa americana da quelle parti. Sfilarsi non se ne parla naturalmente, ma un atteggiamento, come dire, perlomeno controverso, perlomeno contraddittorio. Come commenti? E con questo poi vi dovrò, certo, vi chiedo, certo, scusa, lasciare. Certo. L'Afghanistan è il problema. E quindi, e non solo, non sarebbe criminale discutere di sfilarsi o di exit strategy quando ancora non vi sono risultati concreti. L'Afghanistan, la violenza di questi giorni, di queste settimane e delle passate settimane, è frutto della disattenzione, è frutto di un impegno non coerente ed è frutto di una strategia assolutamente altalenante. l'Afghanistan e gli afghani hanno bisogno di coerenza, ed è questo che chiedono alla coalizione internazionale, una coerenza di azione e di intenti, ed è quello che ovviamente tutti noi ci auguriamo si possa verificare nelle prossime settimane, dalle prossime settimane in poi. Grazie, grazie dell'attenzione e della competenza da Andrea Margelletti. Questa è l'intervista che abbiamo registrato qualche istante fa con Margelletti qui a Buongiorno America, per dare il nostro contributo alle notizie di cui tutti i media, in particolare italiani naturalmente, si stanno occupando in queste ore, in un giorno di ordinaria purtroppo violenza in Afghanistan. Soltanto che questa volta tocca a noi, tocca ai soldati italiani. Sono solo di ieri le notizie di 3 militari americani della NATO, ad esempio, rimasti uccisi nell'esplosione di una mina nel sud dell'Afghanistan. Il colonnello Shanks ha spiegato che le 2 vittime risalgono a ieri, che è segretato il luogo dell'attacco, l'identità dei soldati uccisi. Altri 2 soldati britannici invece sono morti in Afghanistan sempre ieri, sono 216. I militari di Sua Maestà deceduti dal 2001 in Afghanistan, i militari inglesi. Il Ministero della Difesa britannico precisa che un soldato è deceduto in un ospedale militare, un secondo è stato ucciso mentre stava effettuando un pattugliamento a piedi, in quello che a tutti gli effetti di conseguenza è uno scenario di guerra estremamente complesso, in cui l'esito elettorale appena sancito, la vittoria di Karzai, dovrà praticare un cambiamento di rotta, ma i cui indirizzi in questo momento sono più controversi di solo qualche mese fa. Nel frattempo Karzai ha detto di non credere alle frodi massicce che vengono attribuite alle elezioni, di cui peraltro è il vincitore. Dice sì, forse ci sono state, non sono numerose, se ci sono state sono frodi di poco conto, accade in tutto il mondo, credo fermamente nell'integrità delle nostre elezioni, nell'integrità del popolo afghano, nell'integrità del processo e del governo che da questo processo nascerà. La commissione elettorale afghana ha fornito risultati che danno, come sapete, la maggioranza assoluta appunto a Karzai, e quindi gli consegnano nelle sue mani un paese nelle condizioni che conosciamo, un paese nel quale invece esita sempre più il presidente degli Stati Uniti Barack Obama ad affondare le mani, ad affondare soprattutto i piedi dei suoi soldati. C'è una pressione, c'è una richiesta, c'è un grande dibattito per valutare l'aumento delle truppe in Afghanistan affinché non si resti in mezzo al guado. Insomma, questa è la teoria di chi sostiene che cominciata l'impresa va conclusa, ma Obama esclude per adesso una decisione vicina sull'invio di altre truppe. Mike Mullen, come dicevo poco fa, appoggia le richieste dei comandanti della missione NATO in Afghanistan. Obama però parla con i giornalisti, dice che ci vuole pensare, prendere la decisione giusta richiede tutta la sua riflessione, non intende farsi prendere dalla emozione e soprattutto dalla difficoltà della situazione, quella difficoltà a cui anche John Kerry, l'ex candidato nel 2004 alla presidenza degli Stati Uniti per i democratici, ha fatto ampiamente riferimento in una conferenza stampa molto ripresa oggi dai telegiornali americani, nel corso della quale dice: in questo momento, mentre le nostre truppe e le truppe dei nostri alleati, come per l'appunto gli italiani, si stanno sacrificando sempre più, stanno soffrendo sempre più, e il nostro cammino, i nostri progressi sembrano crescere sempre meno, la prudenza è la prima regola a cui si deve improntare la Casa Bianca per delle scelte che potrebbero avere effetti deflagranti. Questo è lo scenario attorno a una tragedia che naturalmente il nostro paese sta soffrendo in queste ore, su cui invece purtroppo i media anglosassoni, come dire, sono tiepidi perché la temperatura è alta ormai da molti mesi, ormai da molti anni, e di queste notizie ormai c'è addirittura una certa abitudine. Chiudo questa prima parte di Buongiorno America, prima di avere un altro contributo interessante sull'argomento, con un'altra notizia triste. Oggi non è una giornata felice, ma questa notizia riguarda lo show business, la notizia della morte di una grande cantante americana, che peraltro proprio del pacifismo ha fatto una delle sue bandiere. Si chiamava Mary Travers, era la voce femminile del trio pacifista per antonomasia della musica americana, soprattutto gli anni 60. Loro erano Peter, Paul e Mary, e usavano l'amico Bob Dylan, le canzoni dell'amico Bob Dylan, proprio per chiedere all'America, in altri anni, in altre storie, di intraprendere la strada della pace. Buongiorno America. E torniamo a parlare dei fatti di Kabul di questa mattina, l'attentato mortale ai due mezzi del nostro contingente. Un'altra voce che sentite spesso da questi microfoni ci dà dei pareri specialistici assai misurati. È Alessandro Politi, il direttore dell'Osservatorio Scenari Strategici e di Sicurezza di Numisma. L'abbiamo sentito poco fa, appunto, per interrogarlo sul tema. Ecco l'intervista. Buon pomeriggio a voi. Allora, sulla base naturalmente di quelli che sono gli studi prima, proprio tutta quel know-how, quella conoscenza di cui adesso già molto si sta discutendo, giudicando la prevedibilità di un evento di questo genere, ma la domanda principale che voglio farti è: giudichi l'attentato di questa mattina un attentato mirato contro il contingente italiano, Alessandro? Da un lato gli attentati sono sempre frutto di una contingenza dell'ultimo minuto, perché anche in questo caso è stata violata la sicurezza del blocco delle ambasciate. Quindi non sappiamo se gli attentatori volessero proprio colpire gli italiani, ma questo tipo di attentati ha il vantaggio di poter essere deciso, non pianificato, ma diciamo eseguito all'ultimo minuto. È il bersaglio italiano, che sia voluto o no, purtroppo era un bersaglio eccellente per gli attentatori. Anche per gli effetti naturalmente mediatici che avrà questo attentato. Non è un caso che negli Stati Uniti in questo momento le cronache che raccontano ciò che sta accadendo ai massimi vertici della nazione in relazione all'atteggiamento da tenere nei confronti della missione in Afghanistan siano rapporti estremamente contraddittori. Si intuisce che Casa Bianca, Pentagono, Congresso e specialisti, nella fattispecie il generale McChrystal e l'ammiraglio Mike Mullen, che ha appena riferito al riguardo, la vedano in modo diverso. C'è una richiesta di incremento delle truppe. Mullen avrebbe detto che sarebbe necessario un incremento delle truppe americane della NATO tra le 2.000 e 4.000 unità, un'appropriata forza antiterrorismo probabilmente necessiterebbe di maggiori forze, ha detto davanti a una commissione del Senato per le forze armate, ma Obama naturalmente resta in guardia. Gli indici di gradimento dell'impresa sono, come dire, perlomeno sconcertanti, e il lavoro in Afghanistan lo si fa tutti insieme, ma mi sembra inevitabile dire, Alessandro, Alessandro, che poi stiamo tutti a guardare cosa fanno gli americani, o no? Beh, direi che questa è l'ultima occasione per evitare di farlo. C'è un gruppo di paesi che ha fatto anche un gruppo di contatto separato che combatte nel sud. La missione di presidiare le altre parti dell'Afghanistan non è affatto secondaria, perché altrimenti il fronte sembra tenere, ma dietro tutto si disgrega. Però è importante non mandare dei segnali, ma agire concretamente in modo da chiudere nel miglior modo possibile questa guerra. Allora, non si possono mandare gli uomini soltanto per le elezioni e poi ritirarli. Certo. Questo non è molto utile. L'altra cosa che è chiarissima è che comunque anche in Afghanistan tutti sanno quello che viene irresponsabilmente detto sulla scena politica italiana. Quando uno dice riportiamo a casa i ragazzi, significa favorire l'arrivo di un'autobomba. Un commento ti chiederei per concludere a questa intervista che è stata poi riportata ieri dal quotidiano Libera, un'intervista fatta da Ignazio La Russa, il ministro della difesa, a Defense News, in cui si parla di una modifica, di una correzione nelle attrezzature anche del contingente italiano in Afghanistan e di questa sostituzione degli aerei Tornado con 4 aerei AMX. Questa è una operazione di carattere tecnico su cui naturalmente ci sentiamo tutt'altro che autorizzati a emettere qualsivoglia commento. Ci ha stupito di questa intervista però la parte secondo il quale l'Italia, scrive sempre il giornale Libero, potrebbe autorizzare l'uso di armi diverse rispetto ai cannoncini di bordo, il cui impiego è già consentito ai Tornado. Il ministro avrebbe detto la stessa autorizzazione verrà fornita agli AMX sebbene possa subire revisioni in teatro. Insomma, tra queste righe si potrebbe leggere, come dire, un innalzamento della partecipazione armata del contingente italiano, in questo caso aereo, al fronte afgano. È così? Ma se uno deve sintetizzare, AMX sono aerei fatti per l'attacco a terra. Altro armamento significa che si usano bombe, cluster, insomma, razzi, missili, tutto quello che serve. L'unico piccolo problema è che con McChrystal si vuole impiegare molto meno la forza aerea e molto di più i fanti. Quindi rischiamo di andare in contropiede nel migliore dei casi e di fare invece AMOS nel peggiore. Ma per concludere, la sensazione che hai in queste ore è che ciò che sta accadendo nell'intervento occidentale in Afghanistan goda di un sufficiente, di un apprezzabile coordinamento generale o no? Sono sicuro, perché ho avuto modo di avere una serie di incontri al George Marshall Center, a Garmisch-Partenkirchen in Germania, che il coordinamento militare è nettamente migliorato. C'è adesso una catena di comando praticamente unitaria, mentre prima ci si faceva molti problemi: cosa faceva l'ISAF, cosa faceva Operation Enduring Freedom. Il problema più grosso è naturalmente la tenuta delle opinioni pubbliche e delle elite politiche a casa, che è sempre il tallone di qualunque controguerriglia. Va bene, ti ringrazio Alessandro e spero di sentirti in una occasione naturalmente meno tragica. Questo è stato il contributo al programma di oggi di Alessandro Politi, direttore dell'Osservatorio Scenari Strategici e di Sicurezza di Nomisma. E allora con Margelletti, con Politi abbiamo cercato di offrirvi dei materiali ulteriori per l'analisi, insomma, al di là delle emozioni dei fatti di oggi a Kabul. Una informazione di cui i media si stavano occupando, soprattutto negli Stati Uniti, pesantemente e che noi abbiamo un po' tralasciato alla luce dei nuovi eventi, riguarda un altro scenario complementare, parallelo a quello afghano, e prendendo spunto dal Wall Street Journal, riguarda l'abbandono del piano Bush relativo al progetto di scudo antimissilistico. Il Wall Street Journal scrive: gli Stati Uniti basano la loro decisione sulla determinazione che il programma missilistico iraniano non sia avanzato così rapidamente come si pensava in precedenza, e la minaccia agli Stati Uniti continentali e alle maggiori città europee sia diminuita. C'è stato un incontro a Varsavia con funzionari polacchi e una delegazione americana ed è stata comunicata questa decisione ai polacchi, mentre il presidente Obama si era già occupato nella notte di chiamare personalmente il premier ceco Jan Fischer e informarlo della cosa. Vi riferisco solo del commento di Lech Walesa al riguardo. Ha espresso contrarietà al dietrofronte di Washington al progetto che prevedeva l'installazione tra Polonia e Repubblica Ceca di una stazione radar e di una base missilistica contro eventuali attacchi da Iran e Corea del Nord. Dobbiamo come paese verificare la nostra considerazione verso gli Stati Uniti, dobbiamo prima di tutto badare ai nostri interessi e alla nostra sicurezza. Mi aspettavo un atteggiamento del genere dagli Stati Uniti, vista la politica che sta portando avanti Obama, una politica che a me non piace, come non mi piace il modo in cui ci hanno trattato. Poi c'erano state contestazioni, anche dibattiti al riguardo. Ora c'è il ritiro dell'America dallo scenario, che osserva invece l'America stessa lo scenario afghano con maggiore interesse, soppesando appunto quanto dovrà affondarci i piedi, le gambe e le proprie armi nei prossimi mesi. Questa è la puntata di oggi, legata naturalmente ai fatti della stretta attualità di Buongiorno America. Io sono Stefano Pistolini, in redazione c'è Antonella Migliaccio, Valerio Rocchetti e Fabio Cantadori per la parte tecnica. La mail è buongiornoamerica@radio24.it, la pagina Facebook si chiama Redazione Jefferson 3, la replica a poco dopo mezzanotte, la diretta all'1:30 qui da Radio 24 domani. State tutti bene.